La madre prese il piccolo Cristiano nelle braccia, si chinò su lui e lo baciò a lungo. Forse tacitamente gli diceva qualche cosa. Forse sul piccolo Cristiano scendeva la fervida benedizione materna, viatico d'amore per tutta l'esistenza. Un silenzio profondo, pieno di emozione, regnava nella camera. Grazia Sant'Angelo fermava un braccialetto di perle e smeraldi al polso di Rosina, il dono della comare. Cicillo Sant'Angelo aveva posato sul letto un astuccio di cuoio rosso dove era riposta una posatina di argento e un bicchiere, il dono del compare al bambino. Poi Rosina diede di nuovo il piccolo Cristiano a Grazia. Le due donne si baciarono e sulle braccia di Grazia il piccolino andò in giro. Fu portato prima al bacio del padre, Vincenzino Sticco, che osò appena sfiorargli la guancia per paura che il mustacchio grosso lo facesse piangere, poi a quello della nonna, che gli fece un segno di croce sulla fronte e sul petto, poi alle ragazze astianese, le giovani zie, poi in giro a tutte le signore. La puerpera seguiva questa presentazione con lo sguardo, sorridendo un poco e abbassando il capo, quasi ringraziando ogni frase di tenerezza che tutte quelle persone rivolgevano al cristianello neonato. Ed era un concerto. Il piccolo, con la faccina minuta, col nasetto abbozzato, con quella smorfietta della bocca, con quella molle peluria bionda che spuntava di sotto la cuffietta, sulla fronte, con quella delicatezza di ditini irrequieti, teneriva tutta la società. Lo baciavano piano piano per non fargli male, per non farlo piangere. Gli dicevano delle paroline di amore, quei piccoli nomi che il cuore femminile inventa. Le ragazze lo guardavano curiosamente come un oggettino raro. Tommaso, il servitore, andava intorno con vino e dolci, offrivano per giuoco dei confetti al cristianello serio serio e il compare Sant'Angelo voleva fargli bere del Marsala per avvezzarlo presto, diceva, e degli scherzetti provinciali corsero sul Marsala che preferiscono i cristianelli, mentre la nutrice, Olimpia, una contadina di Cascano, stava ritta in un angolo, bellissima, sotto il fazzolettino di batista bianca, appuntato sul capo da grossi spilloni, con la gonna di seta violetta cangiante, il guarnello di seta gialla e il busto di seta nera gallonato d'oro. Infine venne la volta dei bimbi. Emma e Ferdinando avevano seguito passo passo Grazia Sant'Angelo che portava sulle braccia il loro fratelluccio. Emma toccava ogni tanto il vestito di battesimo. Ferdinando si rizzava sulla punta dei piedi ma non riusciva a veder nulla. Carluccio si attaccava a Ferdinando, avendo 2 anni, portando ancora la gonnelluccia da donna. Quando tutti ebbero baciato il piccino, Grazia Sant'Angelo sedette e i 3 bimbi soddisfatti la circondarono. Stava in mezzo il cristianello con gli occhietti spalancati e la boccuccia che sbadigliava. I 3 bimbi si guardavano in silenzio. Emma soltanto, la donnina, lo baciò. Ferdinando gli mise un braccio intorno alla testa sul cuscino e come la manina del cristianello s'agitava, Carluccio gli diede un ditino e la manuccia del neonato si strinse attorno a quel ditino. Cadevano le ombre crepuscolari in quella camera. La puerpera stanca appoggiava il capo ai cuscini e socchiudeva gli occhi come per dormire. La stanza era vuota. Ella si voltò, cercò con la mano accanto a lei e con fievole, dolcissima voce materna chiamò «Gaetanino! Gaetani!». Il piccolino guardava la mamma con gli occhietti vivaci, ma dietro una tenda un piccolo singhiozzo si intese. Emma De Martino singhiozzava. Ella misurò il lavoro fatto con l'occhio sperimentato e vide che la calza arrivava ormai alla fine del polpaccio. Bisognava cominciare una serie di maglie doppie per diminuire il giro della calza intorno al collo del piede. Attentamente, con l'unghia del pollice che strisciava sui ferri, ella contava le maglie. Quando nell'aria cheta pomeridiana, nel grande silenzio estivo provinciale, un fischio dolcissimo risuonò. Subito Emma levò gli occhi e guardò fra le stecche della persiana verde. Federico Mastrocola era al suo posto, alla piccola finestra del granaio, mostrando la testa bruna tutta arruffata di ricci e torcendosi il mustacchietto incipiente. Emma chinò di nuovo gli occhi e ricominciò a fare il conto delle maglie che doveva diminuire. Nel suo volto pallido di fanciulla anemica si era manifestato con gli anni un crescente scolorimento. Gli occhi avevano perduto e la vivacità e il languore che li rendevano tanto seducenti erano diventati come smorti, come opachi. Due borse di pelle floscia, giallastra, con qualche intonazione livida, si erano formate sotto le palpebre. Le labbra erano passate dal rosso al rosa, dal rosa al violetto pallidissimo, delicato. Ancora le guance conservavano una finezza elegante e la carnagione sulle tempie e intorno alle orecchie era bianca e trasparente come la porcellana, ma quello che invecchiava quel volto senza rimedio non era la radezza dei capelli male dissimulata, non era la magrezza del collo, erano quelle due borse di pelle floscia come morte, già tinte dei colori della corruzione e della decomposizione. Le mani che lavoravano alla calza conservavano la loro bellezza, ma già i polsi avevano certe sottili rughe che ne aggrinzivano la pelle. La cintura era ancora sottile, ma un segno infallibile della vecchiaia era il taglio dell'abito, molle e piatto sul petto, corto di vita, largo sui fianchi, quel taglio tutto fantastico, ma tutto speciale della vecchia zitella. Il segno della vecchiaia era in quelle scarpette di marocchino nero, quadrate in punta, annodate coi nastri di seta nera, col tacco largo e basso che non facevano rumore nel camminare. Di nuovo il fischio di Federico Mastrocola risuonò, dolcissimo. Uno zufolio gli rispose alla loggetta di Chiarina Oliver. Una personcina bionda era comparsa, tutta inondata di sole, ammiccando con gli occhi azzurri. Era Emma Sticco, che tutti chiamavano Mimì per la sua gentile bellezza. Dietro a lei, Chiarina Oliver si intravedeva seduta, china sul suo lavoro all'uncinetto, una grande coperta fatta tutta di stelle. La si vedeva occupata solo dal suo lavoro, disinteressata da quello che poteva fare fuori della loggetta, Mimì Sticco, la sua amica. Veramente anche la biondina Mimì teneva in mano una stella all'uncinetto, ma non lavorava, sorridendo a Federico Mastrocola. La distanza fra la loggetta di Mimì e il granaio di Federico era poca. Ambedue sporgendo nel grande orto d'Oliver, tutto verde di alberi, di fichi. Accanto vi era l'orto dell'etar cagnota, ma le altre due grassone si erano maritate, una a Nola e un'altra a Napoli. La primogenita era morta di parto. Tutte le finestre erano sbarrate, sicché restava solo il balcone di Emma De Martino, donde si poteva vedere l'armeggio dei due innamorati. Ma la persiana verde non si rialzava mai. La vecchia zitella non si mostrava mai, restava dietro le stecche a lavorare la calza. E in quella calda pace del pomeriggio estiva, in quel silenzio di provincia dormiente che digerisce i maccheroni, i due innamorati chiacchieravano, sotto la tutela amichevole di Chiarina Oliver, che fingeva di non udire. Perché non sei venuto alla messa stamattina? Disse la biondina, cercando invano di prendere un'aria severa mentre gli occhi le brillavano d'amore. Ho dovuto accompagnare alla stazione le zie Caputo. Sono partite? Sì, a quest'ora sono già nel ritiro di Mondragone. Mi ci voglio ritirare anch'io, Federì, esclamò ridendo quella gentile. Aspetta di avere 65 anni, Mimì, e di non avere più un cane che ti voglia bene. Per un momento le mani di Emma De Martino, zitellona, si fermarono sui ferri come immobilizzate. Poi si passò una mano sulla fronte, quasi a diradarne una nube, fredda la mano, freddissima la fronte. Dopo la stazione, dove sei stato? Ricominciò la bionda e terribile inquisitrice. Ti ho cercata in piazza. Non è vero niente. Te lo assicuro. Non è vero, non dire una bugia. Domanda piuttosto a Luisa Ciccarelli e a suo marito, sono stato con loro? Domanderò, ho visto Luisa alla messa, aveva un cappello rosso che le stava malissimo, era gialla, orrenda. Era orrenda, ma il cappello era verde e la faccia era color terra, esclamò l'innamorato con voce trionfante, non essendosi lasciato cogliere in trappola. Rideva Mimì Sticco, la furba che aveva teso il tranelluccio dove Federico non era cascato. Rideva anche sottovoce Chiarina Oliver. Ma dietro le stecche verdi nessun sorriso sfiorava le labbra violette di Emma. Ella badava che le maglie doppie fossero a destra e a sinistra della bacchetta, tutte uguali in modo che la calza discendesse bene fino al tallone. Udiva tutto il discorso dei due giovanetti, lo udiva quel giorno come da 2 mesi, sopra i melagrani fioriti dell'orto Tarcagnota, sopra la verdura larga e fitta dei fichi dell'orto Oliver, e al chiacchiericcio, ora allegro, ora sentimentale dei due innamorati, si accompagnava lo stridio di certe cicale, e il ponente portava talvolta un cattivo odore di cuoio conciato o di canapa in macerazione. Talvolta strappava dei profumi all'orto astianese dove erano fioriti i mandarini, ma nulla sapevano Mimì, la bionda e Federico di quanto accadeva intorno a loro. Puzzo, profumo, canto di cicale, ronzio greve di mosconi, nulla sapevano di quello che avvenisse dietro la persiana verde. «Oh, Mimì, con chi sei andata alla messa? Con mamma e zia Lucrezia Piccirillo? È vero che ti vogliono far sposare Antonio Piccirillo? Ho pregato Santa Emma stamane perché questo non sia. Santa Emma vorrà proteggerci, Mimì? Così speriamo», mormorò la biondina congiungendo le mani. «Speriamo», soggiunse Federico, diventato pensoso. Dietro la persiana la zitellona guardava le maglie bianche della sua calza ma non le vedeva. Col quarto ferro distrattamente si punzecchiava una guancia. Sotto l'urto del ferro la pelle floscia cedeva, ma non si scorgeva una goccia di sangue dietro quella carne appassita di creatura anemica. Ripensando alle parole di speranza che i due giovani avevano pronunziate, ella chinava il capo sotto i ricordi delle speranze morte, tormentando la sua guancia esangue, stuzzicando il suo cuore silenzioso e secco. «Ma esiste una Santa Emma?» domandò Federico, volendo fare pompa di scetticismo. «Sei un eretico, Federico», osservò gravemente Mimì Sticco. «Nel calendario non c'è. Leggi il calendario francese, leggi il martirologio, vedrai se c'è. Se manca la santa, santificheranno te, Mimì. Certamente, per la pazienza che ho con te». L'idillio per un poco diventò drammatico. La biondina era furiosa perché Federico non aveva un'oncia di serietà, scherzava su tutto, non si poteva essere sicuri di nulla con lui. Federico, irritato, scrostava dei pezzi di intonaco e li scagliava sulle lucertole dell'orto Oliver, ferocemente. Chiarina, Oliver dovette interporvisi. A una certa ora della giornata doveva sempre intervenire fra i due innamorati. «Che vi hanno fatto le lucertole, Federico?» domandò Chiarina ridendo. «Nulla, è Mimì che è un diavolo», borbottò lui. «Benissimo, caro Federico, e tu lasciami stare». «Sì, ti lascio stare. Cercane un'altra». «La cercherò». «Peccato che la zia Assunta Stianese, la zitellona, si sia maritata l'anno scorso col vecchio cancelliere. Potevi prenderla tu». «Hai ragione, ma scriverò a Teano, a donna Margherita Crocco, per chiederla». «Chiedile tutte e due, Margherita e Vincenzella, con la vigna e i quattrini, in tutto 15.000 ducati e 150 anni». «Sì, sì, mi conviene». E si guardarono in cagnesco. Federico tirandosi nervosamente i ricci della zazzera e Mimì battendo il piccolo pugno sulla ringhiera della loggetta. Chiarina li guardava con una malizia affettuosa negli occhi, tenendo sospeso l'uncinetto e giocando col filo. Federico aveva acceso un sigaro, fumava guardando in aria. Dietro la persiana, Emma De Martino guardava i due innamorati bizzosi. Non così, forse, nel tempo lontano, litigavano dolcissimamente con Carluccio Scoppa. Le mani molli le erano cascate in grembo, smorte sul vestito bruno di lana, e il gomitolo del filo era caduto per terra. Il gatto, il vecchio gatto, rosso e grasso, arrotolato, sonnacchioso, egoista, non si degnava neppure di scherzare col gomitolo. «Mimì!» chiamò Federico. Quella non rispose, scrollando le spalle. «Non farla capricciosa, Mimì, lo sai che ti voglio bene». E queste ultime parole le disse piano, guardandosi intorno. «Shh!» fece lei, mettendosi un dito sulle labbra, ma con la fisionomia già rasserenata. «E perché? Ti possono sentire?» «Ah, chi vuoi che senta? Tutti dormono a quest'ora. Se mamma viene a sapere che io parlo con te, di qui ogni giorno non mi manda più da Chiarina e mi chiude in camera». «Per carità, come faremmo?» «Moriremmo», esclamò tragicamente la biondina. «Ma che? Certo, io sarei capace di buttarmi nel pozzo, come si racconta che facesse Paolina Gasbarra per un ufficiale biondo». «Ma non è morta?» Non è morta subito, l'hanno ripescata ancora viva, ma ha preso una bronchite e è morta 3 anni dopo, di mal sottile. Anch'io morirò di tisi. Federico, se non posso sposarti. Non dire queste cose che mi contristi. E si guardarono con tanta malinconia, ed erano così giovani, sani e belli, che Chiarino Oliver scoppiò a ridere convulsamente. Ma perché la tua mamma è così cattiva? Mamma è buona, rispose la biondina. Ma dice che siamo troppo giovani, che è un capriccio da ragazzi, che tu non hai serietà e che bisogna aspettare. Io ho 24 anni, diventeremo vecchi ad aspettare. E io ne ho 16. Mamma vuol farmi diventare una zitellona. E non aveva avuto una volta anche lei 16 anni, la donna che ascoltava senza più lavorare dietro la persiana verde. Quando? In che epoca soave e remota della vita? E non aveva creduto allora che la gioventù non le dovesse mai finire. Ci vieni al matrimonio di Maria Orlando? Domandò Mimì. Come tu vuoi, Mimì. Vieni, Maria Orlando vuol fare una festa grande, ora che è arrivata a sotterrare uno dopo l'altro i due mariti, i due fratelli Mosca, ora piglia il terzo, e così tutte le ricchezze di casa Mosca passano in casa Orlando. Vieni, noi ci andremo, la comare Grazia vuole presentarti a mamma, cerca di piacerle, non dirle nulla, ma stai serio. Posso far la corte alla comare Grazia? No, signore, insolente. Allora, a tua zia Olimpia, così simpatica? Niente affatto, signor Birbone. E che farò? Con chi discorrerò per non farti arrabbiare? Mi attaccherò alla tua matrina, Mimì. È vecchia abbastanza, non ti pare? Zitto, fece la biondina guardando la finestra dalla persiana verde. Ma la matrina non si mosse, non dette segno di vita, non un fremito. L'agitò per la crudeltà di quei due innamorati. Non era forse stata felicemente crudele anche lei, nel tempo, nel passato, che era fuggito via velocemente? Che dirò alla mamma tua per farle piacere, Mimì? Parlale dei figliuoli, non vuol sentire altro. Le parlerò di te, le dirò che ti amo. Tu sei matto, Federì, parlale dei maschi. A chi vuol più bene? Vuol bene a tutti. Non è Gaetanino che preferisce? No, no, ci ama tutti egualmente. Parlale di Ferdinando che è al Collegio Militare di Napoli. Vi ha preso la cifra reale la settimana scorsa. O di Carluccio che è il più bello di tutti. Tu sei la più bella. Non mi interrompere. Congratulati per Gaetanino che è guarito così miracolosamente del vaiuolo. Dille che Paolino e Pietruccio sono tanto carini. Insomma, pensa che ella non ha altro pensiero per noi, altro amore che per noi. E per papà? Oh, le donne, quando hanno i figliuoli non amano più il marito, disse solennemente la biondina. Anche tu vuoi fare così? Anch'io, sì. Allora preferisco non aver figliuoli. Non ti far sentir dire questo a mamma. Macchinalmente Emma De Martino aveva messo la mano in tasca, ne aveva cavato il rosario e aveva cominciato a recitarlo, tra sé, per non ascoltare più quella conversazione. Era una preghiera che si staccava monotamente da quello spirito, una preghiera senza slancio e senza fervore. Ella non aveva più nulla da chiedere né per sé né per gli altri. Soltanto per un'antica abitudine ogni pater aggiungeva un requiem da che Carluccio Scopo era morto di colera a Napoli. E a questa preghiera, che invocava pace al povero morto, seppellito in un cimitero senza fiori, sotto una pietra senza nome, un lieve riflusso malinconico di vita le inondava il cuore. Il povero morto non l'aveva amata, no. Era rimasto in Napoli, aveva sposata una napoletana e lei, Emma, era rimasta zitella, non si sa come, non si sa perché. Ma ella era ormai senza rancore, piena solo di una grande tristezza, come se tutto si staccasse da lei, un grande funerale lento, giusto dalla chiesa della Croce. Un rintocco fievole a morto giunse. Chi è morto? Chiese Mimì. Emma tese l'orecchio. Donna Irene Moscarella, rispose Federico. Aveva 90 anni, o 120 forse. Chi piglia il posto ora? E maliziosamente, senza parlare, Mimì la bionda con l'occhio e col gesto, sorridendo, indicò il balcone della sua matrina, Emma De Martino. Emma aveva visto tutto: occhiata, cenno, sorriso. E le erano arrivati al cuore senza farla trasalire. In verità, ella posava nella suprema inerzia dello spirito, Nessuna cosa umana poteva darle una speranza o un rimpianto. Qui termina l'ultimo racconto dei cinque contenuti in questo romanzo della fanciulla di Matilde Serao. Prima di pronunciare la parola fine, una curiosità. Nella biografia di Matilde Serao, scritta da Anna Banti, è contenuta questa informazione interessante, cioè la fanciulla, la giovinetta alla quale è stato dato il nome di Caterina Borrelli, sarebbe la stessa autrice, la stessa Matilde Serao. Caterina Borrelli è una figura presente in tutti e cinque i racconti ed è quella sveglia, quella che non ha paura di dire le cose come stanno, che non ha paura di parlare, quella che le cose le sa e le dice e che dà fiducia, forza e coraggio anche alle altre. Ecco, in questa Caterina Borrelli si è dipinta la stessa Matilde Serao. In Elementi di modernità nella scrittura femminile, Matilde Serao, l'autrice Angela Carpentieri scrive: «Abbiamo conferma del fatto che Caterina Borrelli fosse controfigura di Matilde Serao dalla presenza di questo personaggio in quasi tutte le novelle che compongono il romanzo della fanciulla». Caterina con gli occhiali sul naso e il suo bel vestito di lana grigia a fasce di velluto nero, già diventato vecchio, tanto ella era sciattona. Questo scrive di sé Matilde Serao, scrivendolo di Caterina. È questo forse uno dei lavori maggiormente autobiografici e audaci di Matilde Serao, pubblicato dapprima a puntate sulla nuova antologia a partire dal 1884 e successivamente raccolto in volume. Da alcune testimonianze della stessa Matilde Serao risulta che si stesse dedicando all'opera fin dal 1882. Scrive: «Ho lavorato alla fanciulla perché è un lavoro in corso e si presenta abbastanza facile», così scriveva l'amica Olga Ossani. Come abbiamo detto nella presentazione, si tratta di una raccolta di novelle, cinque novelle, in cui la scrittrice rievoca gli anni e le esperienze giovanili. Telegrafi dello Stato, Per Monaca, Nella Lava, Scuola Normale Femminile, Non Più. Come è già stato notato, la successione delle novelle, scrive sempre Angela Carpentieri, non coincide con l'avvicendamento dei fatti narrati e Caterina Borrelli, alias Matilde Serao, è presente in tutte le novelle con un'unica eccezione, Per Monaca, il cui ambiente aristocratico era estraneo alla Serao. Dunque, Matilde era in grado di scrivere di sé anche con autoironia e autocritica, rendendocela ancora più amata per la sua intelligenza e per la sua capacità di essere umile. E ora possiamo dire fine.